fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. I felici anni 60 e 70 furono anche quelli che sancirono l'era delle enciclopedie mediche. Avevo una zia che mi diagnosticava il tumore ogni volta che andava a trovarla, semplicemente perché aveva raccolto in dispense una corposa e succosa enciclopedia medica nella quale lei si tuffava e passava ogni istante libero. E in quello trovava sintomi per ognuno di noi. Eravamo terrorizzati ad andare da questa zia, perché ci trovava sempre delle malattie e raccontava sempre storie terrificanti di persone morte, putrefatte, fatte a pezzi, contaminate, infettate. Beh, la vecchia zia avrebbe oggi, se fosse viva, strumenti molto più raffinati per compiacere la propria lussuria di malattia. Oggi viviamo in un momento di profonda esplosione del romanzo d'appendice della medicalizzazione, che è una sorta di feuilleton che va contaminando ogni nostro lembo di immaginario. Sono le fiction dedicate alla medicina e ai medici, hanno un grandissimo successo. Ve ne cito qualcuna: chirurgia d'urgenza, terapia d'urgenza, medicina generale, crimini bianchi, medici miei. Poi ci sono i classici, il dottor House, Grey's Anatomy, ER, poi Scrubs. E poi andando ancora avanti, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa in Treatment, la fiction dedicata allo psichiatra, a sua volta con problemi psichiatrici, come spesso accade. Poi Tell Me You Love Me, un'altra fiction dedicata con una scatenata ninfomane vecchia sessuologa che riceve coppie di anziani a cui dà delle formule di rinvigorimento senile della loro attività amatoria. Insomma, siamo circondati da un grandissimo immaginario medico e paramedico. E naturalmente tutto questo ci porta a stare peggio, ci porta a considerare ogni istante la nostra vita come l'ultimo. È un profondo controriformista memento mori catodico continuo che ci ricorda che siamo fatti di carne, ma ci dà anche questa sorta di illusione profonda che possa esserci in ogni lembo del nostro immaginario televisivo qualcuno pronto a fornirci delle soluzioni. E noi acquisiamo un linguaggio medico, un linguaggio chirurgico, sappiamo tutto sulle patologie, sui virus, sui batteri. Guardiamo che nei telefilm del dottor House addirittura esiste questa meravigliosa possibilità di vedere all'interno del corpo umano lo svilupparsi della patologia, il tumore che cresce, l'echinococco che sale, il virus che palpita. Insomma, è meraviglioso, è come se fossimo delle mappe scomposte del corpo umano. Tutto questo però crea nelle persone sane di mente una patologia contraria. E questo, naturalmente, il motivo per cui oggi siamo qui a parlare di questo argomento. Una telefonata che ci è arrivata alla nostra segreteria telefonica, che quando la chiamo partirà, e che ha dato il primo spunto per fare questa trasmissione. Del secondo vi parlerò poi. Ciao Gianluca, sono tutti i giorni che ci stressano con le malattie più incredibili. Io rivendico il mio diritto a stare male, che cosa me ne frega? Ho il raffreddore, no, potrebbe essere una rinite multipla con variazioni sull'emisfero destro, no, ho preso freddo, ho mal di stomaco perché ieri sera ho mangiato come una maiala, no, invece no, forse sono celiaca, sentiamo il nostro esperto che ci dice che no, davvero non se ne può più. Perché? Poi quella prevenzione. Sto già bene, devo cominciare a pensare a quando sto male. Basta, mi sono rotta le scatole. Sono l'unica? Noi abbiamo mandato questa testimonianza consapevoli che potrebbe suscitare molte ire dalle persone che dicono ma no, invece vogliamo una sana, profonda, intelligente informazione medica. Noi stessi siamo seguiti da un serissimo, importante programma dedicato alla medicina e al benessere, che è Essere Benessere, quindi non vogliamo noi criticare chi fa informazioni medico-scientifica, ma vogliamo comunque sottolineare, osservare, palpeggiare e bearci di questo clima di medicalizzazione fittizia che ci circonda. Più aumenta, più cresce la fiction dedicata alle malattie e più aumentano le malattie per fiction, quindi le malattie immaginarie. 800 24 00 24, anche voi vi sentite guariti o ammorbati dalla fiction ospedaliera, chiamateci e noi vi diamo il primo lenimento, il primo personaggio televisivo che sembra soltanto sentendolo già di guarire o già di ammalarsi in maniera drastica, che è l'immarcescibile e meraviglioso Luciano Onder. 20 anni, soffro di acne e mi sta comparendo anche un po' di peluria sulle labbra. Cosa posso fare? Rivolgersi al medico, al dermatologo o anche, molto meglio, al ginecologo. Ho la pelle invecchiata e il medico mi dice che è colpa del sole che prendo in estate. E il medico dice bene, è colpa del sole l'invecchiamento della pelle, certo dell'età prima di tutto. Le cheratosi, l'invecchiamento, l'indurimento della pelle, la formazione di piccole crosticine deve essere sorvegliata e deve essere in qualche modo eliminata. Il profeta della prevenzione prostatica, Luciano Onder, che probabilmente rappresenta uno dei punti più alti della medicalizzazione televisiva. Questo è il primo punto per cui questa mattina ho deciso di fare questa perigliosa trasmissione 800240024. Il secondo punto, la profezia che mi ha confermato la necessità di farlo, un incontro che ho fatto all'aeroporto di Fiumicino ieri l'altro, stavo aspettando il mio aereo quando mi sono cominciato a intrattenere piacevolmente con un signore, poi si è rivelato mio coetaneo, si è rivelato melogmane, quindi degno della massima considerazione. Mai sarei andato a cercarmi un ospite specializzato, perché non cerco ospiti specializzati, ma oggi me lo sono portato in studio. È il dottor Giuseppe Neri. Giuseppe Neri, buongiorno, anzi ci diamo del tu perché abbiamo la stessa età, come ci siamo detti a Fiumicino. È direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera di Terni, specialista in neurologia e psichiatria, quindi sei la persona adatta che a me serviva questa mattina per parlare della terapia televisiva o della patologia televisiva? Beh, la patologia televisiva impone la necessità di pensare a una terapia, però l'applicabilità concreta, nel senso di raggiungere i potenziali destinatari di questa terapia, pone una serie di problemi. Sono sicuro che c'è una patologia diffusa, non sono sicuro che disponiamo degli strumenti terapeutici per lenire i danni fatti da un certo tipo di comunicazione. Sei d'accordo che l'esito contemporaneo dell'enciclopedia medica a dispensa, che veniva venduta nei cinema, pippando il proiettore, il frullatore, tutte le vecchie erano felici, speravano con quello di avere una chiave quasi da sciamane con cui potevano poi dispensare consigli a tutto il vicinato, sia oggi la fiction medica. È un grandissimo successo, continuano a farne continuamente, di belle, di brutte, di fantastiche, perché il medico, cioè i tuoi colleghi, la tua categoria, è diventata quasi una sorta di star system rappresentato in televisione. Se ci fosse uno di quei giudici d'assalto, direi che potremmo parlare però di corresponsabilità o chiamata di correo, nel senso che è verissimo che i media tendono a esaltare questo ruolo del medico. Penso di essere sanamente autocritico quando dico che noi medici non siamo immuni, per il nostro narcisismo, da cui sono affetto anch'io se non starei qui con te, a esaltare la possibilità di avere visibilità e di avere audience. Vi sentite dei fighettoni, vero? Io vedo tante volte delle cose che non bisognerebbe vedere fuori degli ospedali, delle cliniche universitarie, i dottori che vanno a prendersi il caffè ancora con il camice bianco, ancora con quegli zoccoli verdi da camera operatoria. Sentono dei fighi fuori di ogni regola. Quello che tu dici mi fa riflettere su una cosa che con scarso successo dico spesso, che noi siamo un paese che coltiva ambizioni scandinave e cerca di coniugarle con realtà operative di standard ruandese. Parlando a Ruanda, Burundi. Con lo stetoscopio infilato nel camice, con l'infermiera o la dottoressa vicino, che naturalmente deve essere sempre procace, sempre lasciare immaginare sotto quel camice non porti nulla. Ecco, questo quadretto si sta via via consolidando con il dottor House che aleggia dentro ogni medico, si fa crescere la barbetta incolta, magari finge di zoppicare, o questi termini medici di cui ormai tutti abbiamo fatto ampia dottrina, lo stiamo intubando, lo stiamo perdendo, e poi il numero infinito di farmaci, di medicamenti, di terapie di cui non sapevamo nulla, e improvvisamente diventiamo dei grandi esperti. Mi ha scritto uno degli ascoltatori che mi segue via Facebook, che gli capita spesso in ospedale, lavora in un ospedale per bambini, che i genitori vadano a protestare dai medici perché hanno seguito delle terapie viste, non so, Grey's Anatomy o il dottor House, e dicono: perché non fate questo al mio bambino? Beh, questo è molto vero, però per onestà intellettuale bisogna dire due cose, Gianluca. Uno, che è vero quello che tu dici, ma è anche vero che quelli che portano avanti il sistema sanitario, cioè che fanno funzionare gli ospedali, sono quelli non soltanto che fanno le cose apparentemente eroiche, ma quelli che ti garantiscono che a mezzanotte del giorno di Natale o la mattina di Ferragosto ci sia in un pronto soccorso da Ragusa alla Val d'Aosta qualcuno che si occupa di te, e questi vanno anche tenuto conto che esistono. Per il resto, anche con gli adulti succede questo. Il figlio della malata, il cugino di campagna però affezionato a internet, ti pone una serie di diagnosi differenziali scaricate la sera prima da un sito dell'Oklahoma e pensa di discuterne con te, al che a volte uno riesce a contenere queste cose, a volte pensa anche a quella che tanto tempo fa venne chiamata l'arroganza degli ignoranti. Esiste uno studio relativo alle classi sociali più colpite da ipocondria? Esiste l'americano di Arieti, che era professore alla Columbia University già negli anni 60, e diceva una cosa che è verissima anche alle nostre latitudini. Piccola parentesi, tutta una generazione di medici in giro per l'Italia, io lo posso dire perché ho radici anche calabresi, dicevano che esisteva la sindrome calabrosicula, nel senso che un certo tipo di persone di una certa estrazione, prevalentemente donne, proponevano fin dagli anni 40-50 un tipo di sintomatologia molto variegata, ma non riconducibile a un danno organico. Gli americani, quindi, invece, malati immaginari. Malati che utilizzavano i segni del corpo per dare voce a un bisogno di attenzione che non trovava ascolto. Guarda, ti leggo quest'altro messaggio che mi è arrivato su Facebook da Elena. Io ho la sindrome della Croce Rossina, non mi sono mai perso una puntata di IAR. Dopo una laurea in lettere ho fatto un anno di scuola per infermieri professionali. Compulso avidamente ogni bugiardino che mi capita in mano, ma non per questo sono ipocondriaca, tutt'altro. Semmai le rare volte in cui ho qualche problema fisico lo uso per far sentire in colpa mio marito. Il fatto che lei abbia la consapevolezza di usarlo per far sentire in colpa suo marito fa pensare che forse la rete di rilevamento dei sistemi di igiene mentale nel nostro territorio non intercetta tutti i candidati a terapie opportune. Quindi? La signora forse, se gestisse nell'ambito appropriato con il suo medico, potrebbe fare dei passi avanti anche per la qualità della vita sua e del marito. Non confondiamo qua, non è il medico in diretta, non vi diamo nessun consiglio utile, ci telefonate se avete patologie, non ce ne importa solamente nulla, in questo contesto naturalmente, non perché siamo spietati o crudeli, ma abbiamo già Franco, ci ascolta, 800 24 00 24. Franco, buongiorno. Pronto? Sì. Pronto? Lei è un malato immaginario? No, anche se sì, parzialmente, come tutti ovviamente. Io sono un medico. Ah, un medico, benvenuto. Come ho detto già in redazione, non sono allineato con la strategia imperante oggi attuale, che è la ipermedicalizzazione. Io volevo lanciare una provocazione, anche visto le presenze, diciamo, esperte che ha adesso in studio. No, guardi, è un suo collega, ma l'ho raccattato all'aeroporto, è qui per puro caso perché ci siamo parlati, se no non avrei mai avuto un esperto. No, guardi, però è molto semplice. Io dicevo questo, che oggi occorre, cioè si crea prima il farmaco e poi bisogna creare il malato. Si abbassano le soglie dei valori patologici in modo tale che diventano malati persone che fino a ieri erano sane, perché l'azienda, le industrie farmaceutiche sono entità a scopo di lucro e quindi... Cioè vorrebbe dire che si creano delle malattie immaginarie per poi dare la medicina per curarle? Che immaginari, diciamo, si creano, per esempio il caso dell'ipertensione, del colesterolo, del diabete, per l'impiego di tanti farmaci come le statine, eccetera. Sì. Ci sono continui consensus di esperti che rivedono al ribasso i livelli, diciamo, di tra virgolette pericolosità di questi. Io, per carità, rispetto la ricerca quando è fatta seriamente, ma c'è tanta anche inquinamento, Lei come medico adesso, se no trasformiamo questa trasmissione in un programma medico, cosa non vorrei fare mai, è un programma di analisi della società, mi piace più così. Ecco, lei nei suoi pazienti intravede questa sorta di sindrome dall'ipermedicalizzazione? Sì, lo dicono anche i miei colleghi, c'è la sindrome dal giorno dopo delle varie fiction televisive che secondo me... Questo è il punto, volevo sapere. Ecco, il giorno dopo del dottor House, vengono da lei dire che hanno il bacillo particolare? Sì, piuttosto il dottor House, piuttosto che il programma di Mirabella, magari. Elisir, cioè, mitico Elisir. Assolutamente sì, lunedì mattina è tutto... Con il fantomatico dottor Cargiulo, quello con il riporto, c'è un solo capello arrotolato in tutta la testa, in tanti anni... Al di là di queste, diciamo, queste notazioni estetiche, insomma... Perché fa pensare, dico... È un personaggio proprio per quello, capito? Anche lì si spazia da crisi cardiache, certo, alle emorroidi, la prostata è sempre molto presente. Insomma, entriamo in una sorta di sintomatologia di cose che una volta... Io vengo ancora da una cultura in cui si diceva i piedi con rispetto parlando, lì invece c'è l'eviscerazione totale di ogni fistole. Un'ultima osservazione, che però non volevo rubare spazio. Oggi si fa tanto parlare dell'aumento... della vita media. Ma bisogna ricordare che i novantenni, gli ottantenni di oggi, quando avevano 40 anni, non prendevano farmaci perché non ce n'erano tanti. Vorrei vedere la vita media dei cinquantenni di oggi, compreso il sottoscritto, fra 40 anni. Tutto qua, nient'altro. Siamo d'accordo, attualmente facciamo i debiti scongiuri, ma grazie a Dio noi pratichiamo molto poco le medicine per una sorta di mania contraria di cui siamo vittime. 800 24 0024. Stai tranquilla piccola, va tutto bene. Che cosa succede? Ha cominciato a vomitare, io non so che cosa l'hai preso. Stava bene, le stavo raccontando una favola. Ti senti meglio adesso? Mamma. Amore, c'è quella nonna, non ti preoccupare. Piccola, non ti preoccupare, non succederà più. Ma ha mangiato qualcosa di strano nelle ultime ore o a casa? Ma certo che no, soltanto il pasto dell'ospedale. La frequenza cardiaca è nella norma. La febbre, Esther? 36,7 nelle ultime due ore. Che cosa c'è nella flebo? Che cosa le state dando? Avevo prescritto paracetamolo e ranitidina in soluzione fisiologica. Io spero per voi che non abbiate sbagliato un'altra volta, perché se avete dato qualcosa... Cioè quello che ha prescritto la dottoressa, paracetamolo e ranitidina in soluzione fisiologica. E allora perché sta male? Che cos'ha? Signora, stiamo facendo tutti gli esami, ma ci deve dare tempo. Ma com'è possibile che non riusciate a dare una spiegazione? Perché ha avuto quell'accesso di vomito? Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Pronto? La sto ascoltando. È rimasto colpito. Mia? Posso dire? L'ho chiamata apposta. Cioè, io dico che un po' i soliti luoghi comuni, cioè i fatti che i medici alle visite non parlano, oppure che amano più la malattia che i malati, oppure che i medici che curano che non guariscono ci sono, come ci sono i medici bravi. Però purtroppo i luoghi comuni molte volte sono veri. Ecco, ma la fiction televisiva, la medicalizzazione televisiva, secondo lei ribadisce i luoghi comuni o crea nuove attese, nuovi personaggi fantastici, nuove situazioni? Ha sentito la bambina che sta morendo, la mamma che corre, la dottoressa che interviene. Sembra ci sia un gusto perverso, quasi morboso, di gioire o di partecipare al dolore altrui, per questo allontana il nostro? Beh, quello sì, c'è un po' di spirito morboso sicuramente. Lei guarda questo tipo di televisione? Lei guarda queste fiction televisive? Non lo vedo, non mi interessa quello. Perché... Ma allora perché ha telefonato? Io parlo per esperienza personale, no? Nel senso che quando... io ho avuto un problema, adesso la faccio breve, perché comunque ho avuto un problema alla cartilagine, che avevo un difetto di postura in pratica. Mai curato, perché mai diagnosticato, e che mi creava mal di testa, curati per 20 anni con medicinali piuttosto forti, mal di schiena altrettanto... E nel frattempo mi si è consumata anche la cartilagine. Per caso, portando i miei figli a fare un controllo della postura, mi sono fatto controllo anch'io, avevo un difetto di postura. Curato quello, mi sono sparito i tremori. Non vogliamo, ho già detto, trasformare questa trasmissione, che è un'indagine sociale sugli effetti delle fiction televisive nella nostra paura di star male, ma pensiamo che sia anche terapeutica per la cartilagine, un bel colpo di motosega. 800 24 0024. Dottor Neri, facciamo un punto su quanto detto finora. Su questo compiacersi del dolore altrui, spiare nella corsia d'ospedale, guardare la patologia, osservare dal profondo le viscere del malato, dà sollievo, aiuta? Beh, ci sono due aspetti che bisogna tenere presente. Uno, che volevo, rifacendo a quello che dicevi tu poc'anzi, sottolineare, è che uno degli effetti perversi delle fiction televisive è rinforzare questa idea diffusa che l'elemento distintivo sia disporre di tecnologie avanzate, di macchine supermoderne, di attrezzature ipertecnicizzate e non di un esemplare umano medico con una corteccia cerebrale funzionante che le sappia usare, che è il discrimine. Perché se no si crea l'aspettativa che sia dei pazienti sia dei decisori, che tanti più macchine straordinarie avremo e meno persone capaci di usarle, tanto meglio andremo. Sul discorso poi del voyeurismo in campo medico, sai, il problema è complesso, perché uno dei meccanismi con cui noi ci difendiamo rispetto alle nostre angosce profonde è quello di proiettarle sull'altro. Quindi il fatto di occupare la nostra attenzione con i guai altrui ci immunizza e ci difende dall'eventualità di immaginarli come propri. E questo era il conforto dell'antica, ponderosa e comprata a dispensa naturalmente, enciclopedia medica della vecchia zia. Test dello stress. Sei in grado di far fronte allo stress? Conduci una vita soddisfacente che ti permette di reagire alle pressioni in maniera sana ed efficace? Il test dello stress è quello che fa per te. Test disturbo della condotta. Pensi che tuo figlio manifesti dei comportamenti inappropriati, violenti, dannosi, per se stesso e per gli altri? Questo test ti aiuterà a verificare la presenza di un figlio disturbato. Disturbo ossessivo compulsivo. Pensi di soffrire di ossessioni e compulsioni? Hai desideri irrefrenabili e inarrestabili di comprare oggetti in continuazione? Questo nostro test ti permetterà di capire se sei shop addicted. 800 24 0024, stiamo parlando della caduta emotiva delle fiction mediche, della medicalizzazione quotidiana nel nostro comportamento. Dice Dario su Facebook: la parola del medico sostituisce la parola di Dio? In questo senso la ripetitività degli elementi di cui parli potrebbe essere vista come rassicurazione liturgica. Il dottor Giuseppe Neri, direttore del Dipartimento Neuroscienza dell'azienda ospedaliera di Terni, specialista in neurologia e psichiatria, trovato all'aeroporto di Fiumicino e portato qui d'urgenza a rispondere alle vostre domande, ha già accennato che probabilmente esiste un rapporto diretto fra livello culturale e ansia per le malattie suscitata, fomentata, accresciuta dalla medicalizzazione televisiva. Dottor Neri. Assolutamente. Perché quando si pensa poi che le persone che ti propongono un certo tipo di disturbo, nella realtà ti stanno raccontando la loro storia personale, anche se ti parlano di un bruciore di stomaco, di strane vertigini, e mettono a nudo in questo modo alcuni punti molto sensibili e vulnerabili nella loro esperienza di vita, solo che te lo comunicano con un canale che è centrato sul corpo, perché nella loro mente è più accessibile e più decente e più presentabile il disturbo del corpo, molto più complesso, perché li metterebbe in discussione o aprirebbe dei problemi casomai di relazione nella famiglia, nella coppia, il parlare di problemi che non sono del corpo. Beh, dottor Neri, ti abbiamo preparato proprio perché tu possa poi dare corpo a questa tua idea, una testimonianza, come si dice sempre, veramente sconvolgente. Quante cose tocchi tu durante la giornata? Io la mucchina la uso sempre, me la porto sempre in bagno, una mia compagna fedelissima la porto niente. Sai quando esci di casa ce l'ho all'orologio, sì ce l'ho la mucchina, certo. Mi lavo le manucce, certo. Ecco, per esempio, quando vado a fare il bancomat, poi la mucchina me la passo sulle mani. Il bancomat mi fa proprio un po' schifo. Per i ristoranti, ovviamente, dove l'occhio cade immediatamente sulla forchetta, sul coltello, sul bicchiere, che tutte le volte chiaramente mi deludono perché ci trovo macchie, aloni e cose che fingo sempre che mi cadano per non mortificare il cameriere, soprattutto perché se tu offendi il cameriere lo mortifichi, su queste cose c'è il terrore dello sputo nel piatto, che è un grande classico. Ecco, questa ragazza, dalle fattezze affascinanti, in realtà vive la realtà come se fosse un telefilm del Dottor House, in cui si vedono i microbi, i batteri, dei vermoni terrificanti strisciare sempre all'interno del corpo in agguato per aggredirci. E gira con il flacone del disinfettante. Cosa ha questa ragazza? La medicina. Non voglio fare diagnosi, no, la medicina classica mette subito le etichette, l'etichetta che serve a rendere complicate delle cose semplici o che distingue la casta medica è rupofobia, paura dello sporco. Il concetto è un altro, il concetto è che quello che è più interessante nella storia di questa ragazza è che quello è un classico esempio di una persona che riesce, forse da lungo tempo, non so che età abbia, a canalizzare all'interno della dedizione a una ossessiva ritualità dedicata alla pulizia e quindi alla protezione dalla contaminazione, tutta una serie di tensioni e di conflitti che, se sono contenuti dentro l'involucro della sua concentrazione sul pulito e sulla protezione della sua barriera del corpo dalla intrusione di quello che è altro e potrebbe possibilmente contaminante, ok. Il guaio, senza fare terrorismo radiofonico, è che c'è il rischio che questa barriera, che questo involucro si rompa e allora emerga la psicopatologia sottostante. Sì, quando si rompe l'involucro sono sempre problemi, ma andiamo avanti nella storia della nostra amica. Ero convintissima che sarei stata il primo caso di SARS in Italia. Mi hanno fatto volare con un aereo di tutti i coreani che tossivano tantissimo, e anche se non c'era un focolaio in Corea, ma per me era tutto lì. Ho viaggiato con questi qua, con le mascherine che tossivano, sono arrivata in albergo e avevo tutti i sintomi della SARS, cefalea, nausea. Ero convintissima che avrebbero dopo 3 giorni parlato di me come il primo caso italiano di SARS. Ho quasi imparato a fare pipì come gli uomini e veramente sembro l'uomo ragno, tocco tutto con i gomiti, con i piedi, ormai sono abilissima. Ecco, al di là della fiction esiste un'altra forma di fiction che molte volte è spacciata per informazione telegiornalistica, che in vista di ogni possibile sintomo di malattie spaventose, ricordiamo per la SARS, per la mucca pazza, per un'infinità di malattie, ci sono state veramente delle fantastiche esposizioni quotidiane e naturalmente la nostra povera amica soffriva moltissimo. L'informazione sulle grandi malattie. Beh, sai, come diceva un cronista calcistico di quando io e te eravamo ragazzi, parlando di Beppe Savoldi, cioè per Beppe Savoldi è un invito a nozze col passaggio per far gol. Cioè, voglio dire, parliamo di una malattia che è diventata di moda negli ultimi 20 anni, no? La malattia delle mucche, che si chiama mucca pazza, se preferisci encefalotia spongiosa dei bovini, e parliamo di una malattia che esiste nell'uomo da 80 anni, che dà 40-50 casi all'anno in Italia su 60 milioni di persone e che quindi era qualcosa di assolutamente circoscritto. Che si chiama malattia di Creutzfeldt-Jakob, dell'equivalente dell'uomo. Dov'è il problema? Il problema è mediatico, perché questo è uno degli esempi in cui c'era gente che coniugava una grandissima disinvoltura, parlo di responsabili di media, nell'affrontare alcuni temi, una disinvoltura che l'ha superata soltanto dalla mancanza di conoscenza del tema che trattava. Cioè, la malattia delle vacche è scoppiata all'epoca Thatcher in Gran Bretagna, quando tagliarono del 50% le spese per le ispezioni veterinarie e quando consentirono che le mucche, che sono fatte per pascolare e nutrirsi di erba o di fieno, venissero alimentate con le carcasse triturate di pecore. Allora, questi sono i fatti, tanto è vero che col nostro sistema di monitoraggio che il Ministero della Salute ha instaurato in Italia e che fa invidia al mondo, perché sicuramente gli americani, i canadesi e nell'altra parte dell'oceano non ce l'hanno a questo livello, noi abbiamo un controllo oggi sulle mucche e sulla carne che mangiamo assolutamente di ottimo livello. Però i giornali ogni tanto, quando c'è uno di questi casi della malattia spontanea che è sempre esistita da 80 anni e che prende 50 persone all'anno, quindi immaginiamo, per fare un confronto, in Italia ci sono 200.000 ictus all'anno, 50 casi di malattia rara, cominciano a sparare i titoloni. Il problema è che secondo me c'è un'ansia disperata di riempire le pagine con i titoli dei giornali. E quindi diciamo che la notizia medica è una notizia che prende che tira, sempre, che tira moltissimo. Andiamo avanti, perché c'è la fase più interessante, più importante, dei comportamenti quotidiani della nostra vittima da condizionamento televisivo. Caffè intanto, quando lo bevo, vicinissimo al manico, no? Perché chiaramente le persone non mettono la bocca di solito, la mettono in una posizione più comoda che quella centrale. E poi di solito dalla parte sinistra del manico, perché quanti mancini ci stanno rispetto ai destri? C'è il papà di una mia amica che è per me un guru, che quando arriva il momento di stringere la mano a messa, lui butta in ginocchio e finge un momento mistico di preghiera per non stringerlo. Esiste un passaggio di informazioni fra fobici del contatto fisico, come esiste, non so, i siti Promia e Proana, in cui le anoressiche si spiegano come vomitare. Cioè, esiste una sorta di liturgia segreta per chi non vuole avere contaminazioni con il mondo, fatto anche di uomini, di batteri, di sporcizie. Ma è anche la sensazione di appartenenza a un gruppo di eletti o di autoeletti che condividono per alcuni questo problema, per altri questa scelta fondamentale come strumento di sopravvivenza. Saranno coloro che salveranno. Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono lieto di partecipare, mi trovo in questo ipocondriaco traffico di Milano e vorrei chiedere a voi esperti. Non esistono esperti in questa trasmissione. Lei ha ragione, mi scuso. A voi comuni mortali quanto me, quanto quelli che ci stanno... Beh, comuni, mica tanto comuni. Sono naturali naturali. Io volevo sapere una cosa, volevo sapere il vostro parere su questo punto. Cioè, i format televisivi di cui avete parlato fino ad ora sono, secondo me, format televisivi gestiti da non professionisti. Dal mio punto di vista dovremmo essere capaci, la televisione dovrebbe essere capace di creare cluster di ipocondriaci. Mi spiego meglio, se noi dessimo in pasto a Maria De Filippi l'organizzazione di un, che ne so, un amici in barella piuttosto che un amici in corsia, riusciremmo a organizzare meglio il lavoro dei nostri ospedali, delle nostre strutture pubbliche, che potrebbero accogliere delle persone organizzate da Maria De Filippi per essere curate. Beh, guardi, non ha detto proprio una bestialità. Non ha detto proprio una bestialità, si è risparmiato, immagino, la motosega per questo. Molte volte dei casi meravigliosi di terapia di gruppo o di libera esposizione di patologie psichiatriche avvengono in quel programma, queste auto da fede, gli insegnanti contro gli studenti, i ragazzini che piangono, le rivalità, le piccole sopraffazioni. Sei d'accordo, dottor Neri? Sì, penso che sia, appunto, i colleghi che hanno la responsabilità di formare i giovani psichiatri potrebbero utilizzarli come esercitazioni per la parte di formazione sul campo. (800) 24 0024, oggi parliamo di malati immaginari che trovano il loro terreno di coltura per le loro patologie mentali, guardando la televisione, compiacendosi le terminologie dei grandi medici della televisione e aumentando così la loro ansia di star male, magari rinunciando, come nel caso di un'ascoltatrice che abbiamo sentito raccontare le sue più intime ossessioni per la tazzina del caffè sporca, per la mano che viene data di un essere umano che non sarebbe una disinfettata e che potrebbero magari vivere un pochino meglio. Leggo qualche messaggio su Facebook, vediamo un po', ecco. La smettesse cosiddetti medici di parlare male delle aziende farmaceutiche e salvano la vita alle persone, peccato che molti medici si ritengano talmente superiori a non volersi informare sulle nuove molecole. Vabbè, questa probabilmente è una signora del settore, ma non entriamo naturalmente nel merito. Poi Emanuele: mio fratello è chirurgo, beve caffè con gli zoccoli e il camice, non si sente figo per niente. Sono luoghi comuni che crea la televisione. Si va a fare una passeggiata davanti alla Sapienza, nel chioschettino di fronte al tram, e veda lo slalom fra le cacche di cane fatta da tante persone in camice bianco, con lo stesso camice con cui poi magari operano e stanno a contatto con il paziente. Abbiamo al telefono Lidia, finalmente una donna. Lidia, buongiorno. Buongiorno. Senta Lidia, secondo lei perché a questa trasmissione, che è un tema molto femminile, quello della cura delle patologie familiari, non chiamano donne, chiamano così poche donne? Sempre, seguo sempre Melo. Lei è l'unica, infatti, ma perché le sue colleghe donne non chiamano? Non lo so. Non se lo spiega? Non lo so. Io volevo solo esprimere questo concetto, che probabilmente non seguo personalmente questo tipo di trasmissioni, però credo che le persone, forse seguendo, si illudano, credano, pensino che nel momento in cui si trovassero in serie difficoltà possano avere nella medico di famiglia, nella sanità pubblica o privata che sia, quella professionalità, quell'attenzione che oggi il medico di famiglia, che è la persona che dovrebbe più di ogni altro conoscerci e rassicurarsi, se vuoi, anche dal punto di vista psicologico, come diceva prima il professore, non lo fa più. Quindi, per tanare il medico poco attento, loro si guardano il dottor House e così possono confrontare i diversi comportamenti? No, non possono, credo, semplicemente sognare, sperare che nel momento della gravità incontrino un medico che ti dica questa è la diagnosi, questa è la terapia. Come leggere i romanzi di Liala serviva alle nostre nonne, sognare il principe azzurro, guardare il dottor House oggi al malato grave fa sognare che arrivi un medico vestito su un cavallo bianco che magari riesca a salvarlo, una cosa è del una genere. È una possibile lettura, anche perché onestamente il medico di famiglia, io mi sento molto orfana del mio vecchio medico che si è ritirato, non ha più questo atteggiamento nei nostri confronti. Dottor Neri, dimmi un po', perché non sentono più il medico di famiglia come qualcuno veramente dedito alla propria patologia? Ma io penso che la signora dica una cosa che affonda le radici in una realtà innegabile, con le dovute eccezioni, e uno delle, non devo fare l'avvocato difensore di nessuno, ma uno dei problemi è la iperburocratizzazione della sanità nel nostro paese, con una serie di adempimenti di tipo formale, burocratico, amministrativo, autorizzazioni, esenzioni, per cui io capisco che i colleghi medici di famiglia hanno moltissime incombenze di tipo, però sul rapporto e l'attenzione alla persona non posso che dar ragione alla signora. Certo, però devo dire che il confronto è molto difficile da sostenere, grandi divi del cinema e della televisione è un normale personaggio che fa il dottore. Sì, ma il cuore della domanda della signora secondo me stava in un'altra cosa, stava nel fatto che la signora chiedeva una cosa fondamentale che ti chiedono tutti, perché sennò faresti un altro lavoro, venderesti nocciolini al mercato, cioè dimmi cosa ho e dimmi se si può curare. E il problema è che i media mandano anche il messaggio che la regola è che ci siano soluzioni definitive, diagnosi certe e terapie pronte per tutto. e l'esperienza quotidiana di chi fa questo lavoro insegna che questo non è vero. Quindi in televisione è rappresentata una medicina inesistente. Onnipotente, più che altro. Onnipotente, esasperandone gli aspetti di maggiore spettacolarizzazione nell'ambito dei successi. Perché deve essere sempre lieto fine, quindi bisogna sempre guarire. E perché penso che vendano, come le soap opera americane, vendano più spazi pubblicitari se hanno un'audience legata a questa fiction, a questa capacità di ammaliare i loro spettatori. Ivan, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'intervento. Una cortesia. Intervento in che senso? Non abbiamo fatto nessun intervento ancora su di lei. Sì, no, spero di no. No, c'è sempre la motosega, prego. Volevo solo dire una cosa. La medicina in televisione, oltre a alimentare o creare degli ipocondriaci, come dice voi prima, facevate notare prima, potrebbe anche creare, mi faccia passare questa parola, del menefreghismo nei confronti della medicina, che forse è anche altrettanto peggio, cioè... Giusto, prima giusto. Io quando guardavano programma di medicina e ti veniva una macchiolina o un mal di pancia, le sera a pensare a mille cose, a chiamare il medico. Sono arrivato, ho preso coscienza di questa cosa qui, sono arrivato al punto che invece me ne frego totalmente, cioè se evito di fare gli esami del sangue perché potrebbero poi allora iniziare a darti 3.000 cure diverse, oppure vedi una macchiolina e dici boh, passerà, non vado dal medico, che forse è anche peggio questo, o forse è sbagliato anche questo, però l'effetto della medicina in televisione potrebbe dare anche, creare questo diciamo allontanamento dalle possibili cure anche per cose molto semplici. Cioè una saturazione, ne sente talmente tanti di diagnosi che dice ma su di me non ne voglio sapere. È possibile, dottore? Ma io non vorrei... lo seguiamo, non c'è problema. No, nel senso che, voglio dire, quello che dice il nostro ascoltatore secondo me è contraddetto dal fatto che questa scarsa attenzione per le proprie segni del corpo, per i propri sintomi, o questa volontà di minimizzare certe cose è descritto da Areteo di Cappadocia 2600 anni fa, quando la televisione non c'era, per cui la televisione può dare un carico sopra a questo, ma penso che alcune persone hanno fatto e faranno sempre così per motivi indipendenti dalla fiction. Abbiamo Chiara e Maria. Maria, buongiorno. È pronto, buongiorno. Sono in linea? Certo, la sto sentendo. Buongiorno, io ho lavorato 40 anni in ospedale e adesso che ho 62 anni sono in pensione. Cos'era, un medico, paramedico? No, ero un'infermiera. Ah, un'infermiera. Diplomata. E niente, adesso che vado a fare il volontariato, ci sono persone che, negli anziani, ci sono persone che prendono un sacco di pastiglie, che per me qualche volta sono anche inutili. E non è un po' colpa dei medici, scusi, Quindi lei vede un eccesso no, di... No, io dico, va il paziente dal medico, sì. Mi sta bene, le racconta tutti i suoi malanni, però dovrebbe avere una convinzione di non darle solo delle medicine. Sono persone che prendono 7-8 pastiglie al giorno. Va bene. Grazie signora, l'abbiamo risparmiata. Chiara. Sì, ciao Gianluca. Io credo che seguire tutte queste trasmissioni, andare a informarsi in rete sulle malattie, eccetera, sia per molti, parlo anche per me, a volte mi è successo, un modo di esorcizzare un po' quello che ci succede, no? Perché pensiamo che andare a conoscere forse ci porta a poter controllare una cosa che magari non possiamo controllare, quindi non lasciamo il nostro destino. Sì, ma è un'illusione totale. È un'illusione, però non lasciamo il destino nel mano di un altro che è il medico, ma un po' ci prendiamo quello che è nostro, cioè la nostra salute, in modo totalmente illusorio, però... secondo me inconsciamente è uno dei motivi per cui ci piace tanto sapere qual è la molecola che ci danno, se fa la soluzione, non parte la motosega perché non può partire contemporaneamente alla sigla, ma ci stava veramente bene con questa ultima ascoltatrice. Ritorno al punto di partenza: l'illusione che uno può farcela da solo, è come la vecchia zia aveva l'enciclopedia medica per mandare anatemi ai parenti, ma anche allo stesso tempo per salvaguardare in maniera illusoria la propria salute. Oggi essere immersi in un clima ospedaliero da teatro televisivo forse dà l'illusione che forse il medico non ci servirebbe, vero dottor Neri? Ma sai, io un secondo poi chiudo, se no rifletto sempre sul fatto che già da 70 anni fa Jaspers diceva che il medico non può essere né il salvatore né tantomeno un tecnico super specializzato, deve essere una persona effimera con i suoi limiti che cerca di mettersi in gioco per offrire i suoi servizi e le sue competenze. E infatti hanno trovato George Clooney che andava benissimo. Ci sentiamo domani. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.